Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti Sinistro, un mondo dentro il balloon, che oggi parla di Bologna. E lo facciamo con due lavori che prenderemo in esame durante la trasmissione. Il primo è questo, Lettori di Bologna, gemelle diverse, viaggio a fumetti nelle anime della città. È un testo a balloon che parte da uno scritto di Valerio Varesi, tradotto appunto nelle Nuvolette, e che ha visto la collaborazione di 15 disegnatori ed illustratori. Promoter di questa iniziativa, Lido Contemori, notissimo fumettista italiano, anche peraltro anche tra i disegnatori della storia, con una vicenda che ci presenta una Bologna davvero a volte sottosopra, come racconterà lo stesso Lido ai microfoni di Morena Moretti. Questo dopo lo stacchetto musicale. Lido Contemori è uscito da poche settimane il libro Lettori di Bologna, gemelle diverse, viaggio a fumetti nelle anime della città per Guida Editori, e questo è il quarto volume di una collana che voi avete chiamato Nuvole in città, dopo Chiara Pito San Gennaro, Milano Visionaria, Passepartout. Bologna mancava, ma adesso abbiamo colmato questa lacuna, vero Lido? E tra l'altro la partecipazione di artisti è sempre vastissima, perché voi avete questa bella abitudine di fare questi lavori in collettivo. E quindi raccontaci un po' di questo progetto e di questo bel prodotto che ne è scaturito. Beh sì, in effetti il nostro marchio ormai è proprio questo, cioè di fare dei libri collettivi a fumetti e fra un capitolo e l'altro dei fumetti inserire delle illustrazioni a colori, per cui il risultato è un mix, diciamo. Gli artisti sono sempre i soliti, cioè alcuni fumettisti e alcuni illustratori. Allora siamo arrivati veramente a un numero notevole di collaboratori, perché siamo arrivati a fare questo libro con 15 disegnatori che io ho assolutamente l'onore di coordinare, perché in gran parte sono amici. Posso elencarli molto velocemente, per ordine semplicemente alfabetico: Gianni Allegra, Alessio Atrei, poi ci sono io, poi Marco De Angelis, Federico Gennari, Giuliano, il mitico Giuliano, Nimes Manara, che è la sorella di Milo, Marzio Matiani, che guarda caso è di Bologna e ha fatto proprio lui la copertina di questo libro Lettori di Bologna. Poi Cecco Madiniello, la Marilena Nardi, Luca Spagno, Niccolò Storai e Marcello, che poi sarebbe Marcello Toninelli, ma qui si firma Marcello perché lui è conosciuto come autore di strip con questo nome. Il soggetto di questo libro è di Valerio Varesi, cioè lui ha fatto l'idea e il soggetto, uno scrittore che ha lavorato a lungo per la redazione di Repubblica a Bologna e scrive, è un giallista molto conosciuto, veramente uno dei giallisti più conosciuti. Ha impostato il lavoro in maniera molto molto creativa e molto molto documentata, e su questo lo sceneggiatore Pierpaolo Andriani poi ha lavorato. Il risultato è un libro assolutamente pirotecnico, perché c'è veramente di tutto dentro, in queste anime diverse e contraddittorie di Bologna, raccontate in qualche modo in un excursus a sorpresa dalle due torri. È veramente qualcosa di particolare, cioè una cosa che incuriosisce quantomeno, ecco. Sì, molto originale, voi le chiamate come il Giano Bifronte, queste due torri che si confrontano e che poi rappresentano anime diverse di questa città, e in questo racconto vengono messe in luce contraddizioni, vizi, difetti, problematiche, ma anche la bellezza. Quindi ci puoi magari parlare di qualche episodio che si può raccontare, insomma, anche in radio? Assolutamente, sì, perché come dicevi tu, giustamente sono, come dice il sottotitolo, il titolo, gemelle diverse, in quanto che queste torri sono un po' come Gianni Bifronte, la doppia faccia della città. Una delle due è bella e slanciata, però superficiale e ignorantella, l'altra invece è un po' bassina, un po' stortignaccola, però è molto intelligente, molto impegnata, si dà da fare sul sociale, sensibile, come Bologna, questa torre colta, politicizzata, popolare, però guarda caso c'è l'altra parte, la parte affarista, bottegaia, bellissima. In pratica l'Asinelli e la Garisenda, che talvolta sono umanizzate, sono proprio disegnate in veste umanizzate, talvolta sono veri e propri mattoni come è normale, sono le protagoniste proprio di questo viaggio a fumetti, un po' nel tempo, un po' nello spazio, che attraversa le anime contrapposte della città. Come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore e insegue una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto. Delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato, per giovinezza o per errore. Non so se ancora desco in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Le carte, poi il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta. Non ho utopie da realizzare, stare letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Si alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina. Ma non provo più quando la guardo quello che provavo. Padri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio, il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio. Ma le strade sono piene di una rabbia che ogni giorno urla più forte. Son caduti fiori, hanno lasciato solo simboli di morte. Fra gli episodi divertenti di questa vicenda c'è il momento in cui a un certo punto da sotto emergono delle specie di cose fantascientifiche come delle gru al contrario che spingono pezzi di città sopra e fanno emergere appunto queste anime. A un certo punto c'è l'arcivescovo e il sindaco che si mettono a svolazzare per aria, c'è il momento in cui gli intellettuali stanno discutendo in piazza, seduti al caffè, che parlano continuamente dal punto di vista proprio dell'intelligenza bolognese, si raccontano cose sui libri, eccetera, mentre che in quel momento stanno succedendo cose assolutamente assurde, tipo questa questo ribaltamento di pezzi di città. E c'è anche la narrazione del capitolo che si riferisce alla Bolognina con Occhetto, c'è un po' di tutto, c'è la politica, c'è la cultura, c'è l'arte, ovviamente non poteva mancare la musica perché abbiamo anche Claudio Lolli, Puccini che suonano, succedono cose veramente di tutti i colori. Insomma, un libro divertente e che voi presenterete all'Archiginnasio fra pochi giorni. Sì, infatti il 18 di febbraio l'Archiginnasio ci ospita e ringraziamo davvero questa istituzione di Bologna per questa cortesia, perché è veramente un evento per noi, cioè arriviamo con molta felicità in questo ambiente, siamo molto contenti cioè, di poter presentare il libro in quell'ambiente. Fra i presentatori ci sarà anche Alessandro Bergonzoni, per cui si profila una serata alquanto creativa, insomma, fra molte virgolette, perché sarà davvero creativa questa serata. Sarà un ingresso a prenotazione, perché l'Archiginnasio per norme interne non può ospitare più di un tot, per cui non è ingresso libero ma è a prenotazione, poi daremo tutti i dettagli per poter partecipare. Perfetto, allora noi rimaniamo con questo appuntamento per tutte le bolognesi e bolognesi al 18 febbraio all'Archiginnasio. Grazie Lido Contemori. Grazie mille a voi, un saluto a te Morena e a tutti gli ascoltatori, con grande piacere, grandissimo piacere. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza, ci passarono 10 morti, tacchi indegni degli ufficiali, teste calde politicanti, 1,5 metri senza le ali, ci passai con la barba lunga per coprire le mie vergogne, ci passai con i pugni in tasca, senza tassi per le carogne. Bella piazza, ci passò una lepre pazza, ci passò tutta una città calda e tesa come un'anguilla, si sentiva battere il cuore, ci mancò solo una scintilla, capivamo di essere tanti, capivamo di essere forti, il problema era solamente come farlo capire ai morti. Bella piazza, ci passò una lepre pazza, fu il giorno dello stupore, fu il giorno dell'impotenza, si sentiva battere il cuore, di leone avrei fatto senza, si sentiva qualcuno urlare, solo fischi per quei maiali, siamo stanchi di ritrovarci solamente a dei funerali. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza, ci passarono le bandiere, torrenti di confusioni, in cui sentivo che rinasceva l'energia dei miei giorni buoni, e eravamo davvero tanti, eravamo davvero forti, una sola contraddizione, quella fila, quei 10 morti. Come Fumetti Sinistra, Un mondo dentro il balloon, che oggi va in giro per Bologna, ma ci va attrezzati. Grazie a questo vademecum, cartina, non so come chiamarlo, altrimenti guida di Bologna, itinerari e fumetti per una giornata in città. È un mix di testi, fumetti e immagini a cura di Marco Ficar. Questo volume è edito da 24 Ore Cultura Comics. E allora, per sapere di più di questa guida, itinerario o quant'altro, abbiamo con Morena Moretti ascoltato lo stesso Marco Ficar. Dopo lo stacchetto musicale, a lui la parola. Marco Ficar, buongiorno. Buongiorno. Ho qui con me la tua guida, Bologna, itinerari e fumetti per una giornata in città, un tascabile molto ricco di contenuti. Allora io mi domandavo che scelte hai fatto per poter decidere quali itinerari proporre, quali luoghi, quali situazioni, perché non deve essere stato semplice. Sì, infatti non è stato proprio un lavoro semplicissimo nella fase progettuale, perché il problema era quello di dover proporre un itinerario tematico con dei luoghi fisici da andare a vedere, che poteva, per chi vuole fare un giro per la città, seguire uno di quei itinerari, doveva andare a vedere qualcosa di che offriva una qualche sensazione, emozione, quindi un monumento, non era semplicemente un luogo che poi magari era stato magari visto in un film e basta. E non è una guida quindi diciamo convenzionale, per 8 itinerari particolari, e anche per i bolognesi ci sono alcuni luoghi che probabilmente anche sconosciuti, per esempio penso appunto anche l'arte urbana, street art, che è uno degli itinerari. Ci vuoi dire qualcosa su questo? Io intanto uno dei pensieri che stanno dietro questa guida è quella di averla immaginata non solo per i turisti, ma lo immaginata proprio per i bolognesi. L'ho immaginata anche per me, nel senso, mentre la facevo ho scoperto anch'io tante cose, per cui è stato anche un viaggio per me, insomma, creare questi itinerari. E sicuramente volevo cercare di raccontare qualcosa che fosse un pochino inedito o comunque non scontato, ecco, per cui ho cercato delle tematiche. Uno, che interessano a me, che mi piacciono e che è la mia idea di questa città. D'altro canto ho pensato che fosse anche qualcosa di curioso, interessante per chi la prende in mano, la sfoglia, e spero sia uno stimolo per fare un giro per la città, per attraversarla. Sì, certo, vale anche per i bolognesi, oltre che per i turisti. Tu prima citavi Ciak si gira, dove il cinema incontra la città, e lì hai scelto come testimone Pasolini, ma ci sono molti testimoni in questa guida, no? Infatti, per esempio, ho voluto prendere dei personaggi della storia di questa città e in qualche modo, insieme a me o da soli, insomma, utilizzarli come dei ciceroni. Era un modo per introdurre anche questi personaggi, far sì che non fossi solo io ad andare in giro. Mi sembrava molto più interessante raccontare anche delle altre storie di altri personaggi importanti della città. Ricordiamo che questa guida tu l'hai costruita, ma l'hai disegnata, i testi sono i tuoi, infatti è un lavoro che in gran parte hai fatto tu, diciamo. Sì. Sì, io proprio sono partito dalle aree proprio gli itinerari tematici, immaginare quali potevano essere, quelli più interessanti, un po' necessari, per cui c'è anche il cuore di Bologna, perché non è una guida se non parte da Piazza Maggiore, questo è raccontare la città di Bologna, però poi ho voluto raccogliere veramente tanti nomi, un periodo di studio, andare anche un po' in giro per la città, guardare, alzare lo sguardo verso l'alto, quindi non solo camminare, dritti davanti a sé, ma a volte fermarsi a guardare dei palazzi, dei luoghi. Abbiamo citato alcuni di questi percorsi, io direi che a questo punto, visto che sono 8, possiamo citare anche gli altri, Marco. Gli 8 itinerari sono il cuore di Bologna, la città che suona, liceo d'arte, Ciak si gira, Bologna Rainbow, Bologna insolita, l'arte urbana e oasi in città. Va bene, concentriamoci allora su questa arte urbana che ha colpito molto anche me, perché credo proprio che ci siano luoghi che anche i bolognesi a volte non conoscono. Ma intanto ho pensato che questo l'ho immaginato proprio nel creare gli itinerari, ovviamente dove era possibile, il fatto che uno partisse da un punto della città e attraversasse la città da una parte all'altra, dove era possibile. Qui per esempio si parte da San Donato e si finisce in zona Saragozza, passando per il centro. E ho voluto raccontare il progetto Frontier, che è un progetto che è nato insieme alle istituzioni, portare la street art nelle periferie, nella città. E quindi ho pensato che per esempio in Via del Lavoro ci sono degli interessantissimi edifici completamente dipinti da artisti anche internazionali, non solo italiani, e per questo progetto mi sembrava veramente interessante partire da lì, proprio per raccontare la città, cercando di raccontare nella sua interezza, insomma, non solo il centro storico, ma anche alcune zone, diciamo, che fanno un po' parte dei dintorni della città. San Donato, un quartiere importantissimo. Marco Ficarra, ti chiedo un'ultima cosa. Questa guida è finita, è molto carina, ricca di contenuti, si può davvero utilizzare ed è anche molto pratica, direi, organizzata bene. Mi domando, a conclusione di questo lavoro, tu oggi, rivedendola, aggiungeresti, toglieresti, hai dimenticato qualcosa di importante per te? Mi sono messo a guardare tantissime anche guide classiche, turistiche, così, proprio per dire, non è che magari sto per dimenticare il monumento più importante di Bologna, perché in effetti quando tu sei lì che maneggi tanto materiale, appunti, così, poi all'ultimo si deve correre perché c'è la consegna per la stampa e allora a un certo punto togli delle cose, ne aggiungi altre e quindi ho avuto questo panico. Aspetto qualche mail di qualcuno che mi dica, che mi scriva e magari mi dice: ma scusa, ti sei dimenticato di questo, di quell'altro. La cosa che mi piacerebbe è forse fare anche una guida 2 di Bologna, perché comunque di cose da vedere, da fare, veramente ce ne sono tantissime, quindi ci sono delle cose che sicuramente volevo aggiungere, insomma, mi sarebbe piaciuto aggiungere, che alla fine non c'entravano. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, c'è un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi in minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l'assenzio cantava, ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi, per quanto colpita. Bologna è una ricca signora che fu contadina, benessere, ville, gioielli e salami in vetrina. Pensate l'odore di miseria da mandare giù è cosa seria, che vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perché sa la paura. Lo sprechi il tuo odor di benessere, però con lo strano binomio dei morti per sogni davanti al tuo santo petrolio. E i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono da ormai, si son persi, confusi e legati a migliaia di mondi diversi. Oh, quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, cantando canzoni che come cantare di niente. Bologna è una strana signora, volgare matrona. Bologna bambina per bene, Bologna busona. Bologna un belico di tutto, mi spinge a un singhiotto e ad un rutto, rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.